una storia che si ripete, insomma, un presidente che scioglie il congresso e nello stesso giorno appunto i legislatori, il Parlamento reagisce e rimuove il presidente. Ecco, questo è un po' un classico del sistema un po' bizzarro che in Perù è un po' una rarità nel panorama latinoamericano. È successo già nel 2019 con il presidente Vizcarra, è successo poco fa, mercoledì scorso, con Pedro Castillo. Di fatto mercoledì il Parlamento peruviano, che è dominato dalla destra, di fatto è stato convocato per votare su il terzo tentativo di, più che impeachment, perché non è previsto una modalità di impeachment del presidente dalla Costituzione peruviana, però la rimozione del presidente per vari motivi che poi andiamo a vedere, ma il presidente ha agito per primo, visto e considerato che, facendo un rapido conteggio, in un Parlamento che non ha un gruppo parlamentare di sostegno di Perù Libre, ovvero sia della compagine del partito che ha portato Castillo al governo, ha agito prima di che si svolgesse, diciamo, questa seduta e ha sciolto il congresso, detto nuove elezioni legislative, un governo di emergenza eccezionale per legiferare con decreti legge, eccetera, eccetera. Quindi una mossa di fatto autoritaria, anche se non è poi stata portata avanti. Poi abbiamo visto un nodo chiave, ovvero sia l'appoggio dell'esercito, che non è in certi casi così indifferente. Il Perù è un po' un mangia presidenti, insomma, come caso, ovvero sia questa motion de vacanza che è prevista per incapacità morale del presidente, che è una maniera, un'arma fondamentalmente molto forte da parte dell'apparato legislativo per decidere sull'esecutivo, quindi per agire direttamente sul presidente e toglierlo dal proprio ruolo. Pedro Castillo è stato l'ultimo a cadere, ma ci sono altri ex presidenti che hanno avuto vita difficile in questo perenne scontro fra i due poteri dello Stato, ovvero sia esecutivo e legislativo. Già Alejandro Toledo, Ian Taumala, lo stesso Vizcarra che citavamo poco fa, ma lo stesso Pedro Pablo Kuczynski, ma anticamente, un po' più, se andiamo più in là nel tempo, anche Garcia, Fujimori e fino ad arrivare al Castillo. Quindi la costante di questa battaglia permanente tra congresso e presidente si conclude solitamente con la sconfitta di quest'ultimo, anche perché c'è un tentativo di fermare il voto, quindi annunciando a sorpresa lo scioglimento del Parlamento e la creazione di un nuovo governo d'emergenza, e poi una risposta da parte dell'esecutivo che viene poi, tra parentesi, anche appoggiata dalla Costituzione politica del Perù, che è del 93 e che stabilisce che la presidenza della Repubblica rimane vacante, appunto per incapacità morale o fisica permanente, dichiarata dal Congresso, quindi dal Parlamento. Quindi questo giochino, diciamo così, se mi permettete, una sorta un po' di spada di Damocle che pende un po' sulla testa di tutti i presidenti, bastano 87 voti nel Parlamento per far fuori il presidente, di fatto. Questa regola, tra parentesi, è molto antica, ma anticamente veniva considerata quando il presidente dava forti segni di squilibrio mentale. Adesso invece è un po' a discrezionalità dell'apparato legislativo, che è controllato appunto ormai da tempo dalla destra, in un contesto di frammentazione politica incredibile, per cui non c'è un gruppo o due gruppi, insomma, che si fronteggiano, ma è una specie di segmentazione di opzioni politiche che non si distinguono per la propria ideologia o per il proprio programma politico, ma solamente all'interno di una serie di gioco di favori che naturalmente sono controllabili attraverso la corruzione, che è il vero motivo per cui abbiamo questo tipo di situazione, una situazione di corruzione veramente parossistica in questo senso. Quindi potremmo dire che con questo strumento e con la situazione anche che ci hai delineato, insomma, il Perù vive una sorta di ordinaria instabilità. Esatto, una instabilità che, ecco, si è data storicamente. Certo, adesso il Perù sta attraversando una profonda crisi politica e morale, non economica. Paradossalmente c'è una crescita del 3% in proiezione, nonostante questa situazione paradossale di forte crisi politica e anche morale, no? Dovuta appunto alla corruzione e a questa instabilità, a questa incertezza politica che ovviamente nel rischio paese si fa sentire in maniera molto forte. C'è stato un un uso del potere da parte del presidente Castiglio abbastanza allegro dal punto di vista della corruzione. Praticamente sono arrivati negli ultimi sei mesi accuse di corruzione praticamente ogni giorno. Cito solamente un ex capo della direzione dell'intelligence che ha denunciato atti di corruzione che riguardavano lo stesso presidente. Il presidente Castiglio, che ha dato parecchie motivazioni al congresso per questa sorta di desautorazione dal suo ruolo, accuse di violenze familiari, indagini per omicidio, precedenti per guida in stato di ebbrezza, insomma praticamente sia il presidente Castiglio che i suoi ministri hanno aiutato, diciamo così, con vari scandali. Ci sono sette fascicoli in corso di avanzamento da parte della procura, solo quattro sono stati presentati per adesso al congresso, quindi al Parlamento. La cosa più grave, l'atto più grave è stato di questa accusa da parte di un gruppo parlamentare che ha accusato il governo di comprare dei voti, ovvero sia il presidente Castiglio praticamente ha resistito quindi fino ad oggi perché avrebbe convinto, tra virgolette naturalmente, i membri del congresso a non votare contro la propria desautorazione da presidente. Questa sicuramente è un'accusa molto grave e di fronte a questa mossa fatta dallo stesso Castiglio le forze armate sono una variabile che evidentemente il presidente non controllava. E tra parentesi, se pensiamo a quello che è successo nel 92 con Fujimori, il cosiddetto Fujimoraso, quindi un golpe bianco fatto da Fujimori, allora certo allora c'era l'appoggio da parte degli Stati Uniti, oltre che da parte di quella immarcescibile oligarchia che adesso controlla fondamentalmente buona parte dei voti in Parlamento a suon di soldoni, perché parliamoci chiaro, questo è uno scontro che poi ha anche del politico, ma soprattutto ha a che fare con interessi molto forti all'interno del Perù, che ricordo è un paese fortemente ricco di soprattutto nel sottosuolo e quindi fa molto gola a multinazionali estrattiviste che naturalmente hanno degli interessi molto forti nel paese.